12 e 20 minuti, praticamente ci siamo presi di anticipo con noi stessi perché ancora non era iniziata la sigla in realtà, e a questo punto direi che iniziamo volentieri comunque con Napoli, una corrispondenza che, se il traffico ci consente di farci sentire dalla voce che abbiamo già sentito la settimana scorsa. Ci sei? Ciao, sì, sempre un po' bassi, ma mi sento. Tra l'altro appunto pure noi sentiamo un po' con difficoltà a causa del traffico, se puoi trovare magari un posto un po' più silenzioso. Dicevamo, con anche in anticipo sulla nostra sigla, iniziamo questa trasmissione con una corrispondenza da Napoli per lanciare direi queste quattro giornate di Napoli che, riprendendo il calendario del 1943 praticamente, lo stesso della resistenza antifascista e antinazista di Napoli, e rilancia appunto nella vostra città una nuova forma di resistenza contro l'apertura di una sede di Casa Pound nel quartiere Mater Dei. Ne parlavamo la settimana scorsa, nelle scorse settimane un'operazione diciamo nazionale di Casa Pound, dei neofascisti, della nuova piccola federazione giovanile del governo di estrema destra. Casa Pound ha aperto una sede nel quartiere Mater Dei, nel centro di Napoli, in una zona comunque popolare, nel centro, prossima al centro, comunque una zona popolare, comunque una zona e una città che non stanno a guardare, date o quelle sono state gli eventi della settimana scorsa, a partire dal presidio del sabato, non questo, quello precedente, che aveva già visto la partecipazione di un migliaio di persone. Ovviamente ci riaggiorniamo con te per avere un aggiornamento e per avere un racconto di come sono previste queste quattro giornate che dal 27 al 30 settembre vedranno forme di attivismo e mobilitazione contro i neofascisti nella città di Napoli. Certo, beh, anzitutto sono ovviamente già cominciate, toccano anche un territorio più vasto, perché sono state inserite da Capodimonte a Gianturco per dare un segnale in generale contro i fenomeni di xenofobia e di neofascismo. In più naturalmente c'è questa novità rispetto alla quale ieri sera c'è stata un'iniziativa pubblica con interventi dei gruppi GLBT, delle reti antirazziste, dell'AMPI, di gente del quartiere proprio a 150 metri da questa sede, blindatissima da una marea di polizia, e anche con un concerto con i 99 Mosse, insomma, che è durato fino a mezzanotte e ha dimostrato diciamo così la solidarietà del quartiere con questo tipo di discorso. Il problema che c'è naturalmente è che c'è, diciamo, come tu dicevi, ormai è un po' la piccola federazione giovanile del governo di estrema destra, perlomeno dell'estrema destra del governo, tant'è vero che insomma in consiglio comunale ci sono tutti i vecchi pezzi di AN che stanno facendo le barricate per difendere lo spazio. Noi non ci aspettavamo, per la verità, niente di molto diverso. Sappiamo che può essere solo la mobilitazione popolare a rompere la legittimità di queste persone, teoricamente sarebbero incostituzionali. C'è diciamo un percorso che oggi porta varie iniziative nelle scuole e nelle università, oggi pomeriggio un'altra iniziativa al Vomero, che fu un momento di partenza diciamo delle quattro giornate, in cui Napoli comunque è stata la prima città italiana a liberarsi autonomamente dai nazifascisti, e domani diciamo questo percorso chiude con una manifestazione che parte da Piazza Dante la mattina. Quindi una giornata di mobilitazione che hanno in sé ovviamente la voglia di comunicare, la voglia di confermare non solamente una decisione, diciamo una tenuta del territorio, ma anche una serie di contenuti che vanno al di là, bene o male, dell'antifascismo in senso stretto, perché parlavamo l'altro giorno, effettivamente anche questa grande mobilitazione si basa su una diciamo estraneità reale dei neofascisti al territorio napoletano e al tessuto delle lotte sociali, bene o male. Certo, c'è questo, c'è E c'è anche il fatto che la lotta contro questi soggetti non vive solo su un santuario della memoria, ovviamente, ma tocca i terreni su cui la loro propaganda, la loro azione cerca di costruire uno spazio sociale, che è essenzialmente quello di promuovere la guerra tra poveri, di attaccare chi è più discriminato di te come i migranti, eccetera. E questo è evidentemente lo spazio di legittimità che un governo come questo gli concede. Loro non hanno un effettivo radicamento nel tessuto sociale della città, hanno questa forte spinta, diciamo così, politica e partitica, insomma, ad insediarsi, e noi contiamo che invece la gente reagisca a questo. E quindi ovviamente l'invito a questo Yatevenne Day di mercoledì 30 settembre dalle 10.30, Piazza Dante, la partenza per una manifestazione di liberazione. Direi che le parole d'ordine sono molto chiare: nessuno spazio a neofascisti e razzisti, né a Mater Dei né altrove nel napoletano. Questa direi che insomma... diciamo né altrove nel mondo. Diciamo, ovviamente... particolare la manifestazione si riferisce evidentemente al napoletano. Ovviamente diciamo c'è ben poco da aggiungere, mi sembra abbastanza chiaro qual è il messaggio. Penso che o decideranno loro di andarsene o qualcun altro li manderà via, e questo ovviamente è quanto di più auspicabile per mantenere almeno Napoli, una città dove appunto la vivacità delle lotte, del tessuto sociale comunque e della socialità non può essere messa a rischio anche insomma, come purtroppo avviene nel resto d'Italia, Roma in primis, tanto che appunto sono gli stessi attivisti neofascisti romani a sostenere in questo momento una occupazione, praticamente operazione di quattro attivisti, che sono quattro quelli che a Napoli partecipano alle loro attività. Io direi di ricordare semplicemente il blog e di risentirci a ridosso di questa manifestazione. Sì, napoli4giornate.wordpress.com. Va bene, quindi io direi che è importante risentirci domani per avere appunto un aggiornamento da quello del corteo. Ovviamente ricordiamo, Napoli è dietro l'angolo, se si può dire, e quindi può essere un invito anche utile a tanti recarsi. Piazza Dante è la stazione praticamente? No, non è la stazione, è nei pressi del centro storico, però insomma in modo un luogo comunque molto centrale. Comunque appunto chiunque volesse recarsi da Roma, insomma, si tratta veramente di poco tempo in macchina e col treno altrettanto poco, quindi voglio dire l'invito è a chi possa in mezzo alla settimana recarsi di sostenere questa iniziativa. Va bene, allora a domani e appunto buone quattro giornate. Ok, ciao. Ciao. E chiudendo il collegamento con Napoli possiamo iniziare con la nostra consueta sigla, che appunto prima ci aveva preso un po' in contropiede la disponibilità del compagno napoletano. Andare a iniziare tra l'altro una puntata in cui si sentirà per una delle prime volte negli ultimi mesi dal vivo una delle voci che solitamente invece sentiamo via telefono, un gradito ritorno sul tavolo della redazione della radio. Non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio, come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire. Per non tornare, tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore. Non ho più una donna che mi possa aspettare. Non ho più una terra. E nello sfumare le note della consueta sigla, prima di andare a attaccare con un po' gli argomenti di questa puntata, vi andiamo a ricordare doverosamente un appuntamento, quello di domani, 30 settembre, come di consueto ogni 30 settembre, l'anniversario dell'assassinio di Walter Rossi. Per chi non avesse visto i numerosissimi manifesti che si trovano già in giro per la città, già da qualche giorno, Walter Rossi, noi non dimentichiamo, l'appuntamento per domani è alle 17 in quel di Piazzale degli Eroi, per poi portare un fiore alla lapide di Walter alle 18, mentre la sera l'appuntamento si sposta all'ex lavanderia, al padiglione 31 del Santa Maria della Pietà, per una cena sociale. A seguire concerto dei Pad 31 e il Sound System, Dai e pure te, parteciperanno Militantà e interverranno Cristiano Armati, Tano D'Amico, Nunzio Terme e Le Madri per Roma Città Aperta. Lottiamo, recita il manifesto per una società più giusta, contro il fascismo vecchio e nuovo, contro il razzismo e la xenofobia, in difesa della scuola pubblica, per il diritto alla casa. Walter Rossi, un ricordo senza pace e libertà per i compagni dell'ex 8 marzo. Questo quanto recita il manifesto. Sicuramente domani la radio andrà anche a raccontare un po' come si svolgerà la giornata dalle voci di chi ci sta, quindi l'appuntamento per domani alle 17 a Piazzale degli Eroi. Tanto, a proposito di 8 marzo, ricordiamo che è in corso il riesame per le misure cautelari dei ormai insomma, 5 attivisti dell'8 marzo ancora a processo, ancora implicati in questo brutto fattaccio di repressione e di strumentalizzazione, vera e propria diffamazione delle lotte sociali, oltre che degli attivisti stessi. È in corso il tribunale riesame a Piazzale Clodio, in attesa di avere novità. Ovviamente non possiamo che mandare il nostro abbraccio, come hanno fatto tutte le nostre trasmissioni nelle ore precedenti e nei giorni precedenti, a Gabriele, Francesca, Sandro, Michele e Simone, ancora a processo presso appunto il tribunale Piazzale Clodio, dove è in corso un presidio che ovviamente invitiamo tutti e tutte a raggiungere. Tapant ton cou toujours dans la place. Y'a pas d'héros, de la dernière heure. Pas mauvais garçon pour avoir peur. Tant d'années face à se la donner. Tant de mecs à la gueule éclatée. Même si tu te croyais invincible, là tu rends les flics ton fait forcer. Violence, violence, violence dans la rue. Violence, violence, violence dans nos vies. Violence, violence, violence dans la rue. Violence, violence, violence dans nos vies. E rientriamo in studio, anzi rientriamo con un collegamento telefonico. Intanto capiamo se il nostro interlocutore ci sente. Ci riesce a sentire? Sento perfettamente. Perfetto. Allora, come forse qualcuno ti ha anche già riconosciuto dalla voce, siamo in collegamento con Alberto D'Argenzio, consueto corrispondente del manifesto per quanto riguarda quanto avviene in Belgio, e proprio con te andiamo a parlare di quanto ha agitato le strade di Bruxelles fino a qualche giorno fa. In realtà abbiamo sforato rispetto anche all'attualità, ma ci fa piacere andare un po' a riprendere e a raccontare che cosa è successo, visto che in Italia sono arrivate una serie di trafiletti sulla media, sulla stampa mainstream, trafiletti o poco più, che in qualche modo ricordavano quanto avveniva in Francia durante la rivolta delle banlieue, scontri tra le comunità di immigrati e la polizia a seguito, se non sbaglio, del fermo di un giovane marocchino. Io non so se tu vuoi raccontarci un po' meglio di che cosa si tratta. Sì, beh, diciamo che tutto ormai, appunto, mi dici te, rimonta una decina di giorni fa, alle notti di venerdì e sabato, non di questo fine settimana ma del precedente, epoca di fine Ramadan, diciamo. Quello che si è riusciti a capire è che, appunto, un giovane marocchino era stato fermato dopo che c'era stata un'azione di contrasto alla microcriminalità di strada legata fondamentalmente allo spaccio in una zona di Bruxelles che è il quartiere di Molenbeek. Molenbeek è un quartiere che è subito, diciamo, al nord del centro, è uno dei 19 quartieri di cui è formata Bruxelles ed è uno dei quartieri più poveri a più alta diciamo presenza di immigrati. Un fatto che va detto è che Bruxelles, per quanto sia legato all'Unione Europea, è una città fondamentalmente ricca e che non ha seguito molto la crisi, perché è una città di funzionari, ha comunque uno strato di un 20% della popolazione che è sotto la soglia di povertà. Di questo 20% alcuni sono chiaramente belgi, ma molti sono immigrati. Allora, questo è un po' il panorama, se vogliamo, sociale. C'è stata questa retata in questo quartiere difficile della capitale, e dopo la retata è stato fermato un ragazzino per chiedere documenti e lì è scoppiato il putiferio con appunto lancio di pietre. Sono state trovate delle molotov, un tizio ha lanciato dal secondo piano una bombola di gas addosso a un poliziotto, insomma un po' di violenza da strada. Quello che però va detto, ed è il discorso che ci distanzia da quello che succede a Parigi, è che da più di un analista, ma anche ascoltando le persone che vivono appunto nel quartiere, dietro a questa violenza c'è un discorso di presenza di malavita organizzata, fondamentalmente di mafie, che appunto legate al discorso dello spaccio della droga, ma anche al traffico di altri beni che possono essere esseri umani, ma anche armi, stanno librando una battaglia per il controllo del territorio, per intimidire la polizia, il tutto sfruttando chiaramente il malessere e il malumore dei giovani immigrati che non hanno chiaramente approccio e non hanno nemmeno uno spazio, tanto soprattutto nel mercato del lavoro, non si parla tanto di esclusione scolastica perché non c'è, per quanto molto spesso gli immigrati capiti di finire in scuole di serie B, però più che altro nell'esclusione dal punto di vista del mercato del lavoro. Infatti, anche rispetto a quanto dicevi, rispetto a quelli che possono essere i paragoni più o meno calzanti con la Francia, ti volevo chiedere anche magari qual era il modello, che ne so, anche di integrazione del Belgio. Sappiamo che poi c'è stata anche una polemica nei mesi scorsi rispetto a una legge nelle Fiandre che in qualche modo vieta l'uso del velo alle donne musulmane, giusto? Questo è un dibattito che si sta ancora sviluppando a livello nazionale, non solo alle Fiandre. È un dibattito che peraltro si è già presentato in altri paesi e che è un po' il rispecchio appunto del problema dell'integrazione, ma anche dell'identità dall'altro lato. Bruxelles è una città che era famosa negli anni 50 e 60 per un modello urbanistico chiamato appunto bruxellizzazione, per cui fondamentalmente i quartieri non comunicavano fra di loro e si creavano delle sorte di chiusure sociali. Questo modello è stato superato. Va detto che anche a differenza delle città francesi, gli immigrati vivono nel centro della città, non vivono necessariamente fuori. I belgi preferiscono avere la casetta col giardino in cui pascolare il cane al di fuori del centro storico, chiaramente, per cui fino a 10-15 anni fa il centro era la zona, se vogliamo, più malfamata della città per la presenza di immigrati. Adesso c'è un lavoro di riqualificazione urbana del centro, in alcuni casi, come nel quartiere in cui io vivo, tra l'altro, è un discorso portato avanti con le stesse comunità di immigrati, in altri casi meno, e comunque non è un modello di chiusura urbanistica o di segregazione in ghetti come può esserlo quello delle banlieue francesi. Tra l'altro, come dicevo prima, c'è un discorso di difficoltà di accesso al mercato del lavoro molto forte, con l'assurdo che per esempio per molti immigrati di seconda generazione è più facile fare un incarico attraverso la politica, perché sono simboli e collettori di voti nei partiti tradizionali che non tramite un lavoro normale, con appunto questo assurdo che sia più facile essere appetibile essendo rappresentanti di voti che non per se stesso come richiedente o cercando un lavoro. E per il resto, appunto, questo è il gran problema che si sente, che porta a un grado di frustrazione. Però ritorniamo al discorso che i disordini sono stati gestiti soprattutto da mafie, e qui ritorniamo appunto al problema di come una mancata integrazione possa diventare un terreno fertile per le mafie. Però sono due discorsi che vanno tenuti, io credo, abbastanza distanti. Va bene, senti, io so che tu eri anche abbastanza di fretta, quindi non ti rubiamo altro tempo. Se hai qualcos'altro da chiedere non c'è problema. Ok, no, in realtà se tu hai qualcosa da aggiungere, se no... No, ecco, la questione interessante anche sul velo, sulla questione dell'emarginazione, sulla questione della violenza, poi come vado di sfogo, bisogna sempre fare molta attenzione a non cercare di legare le cose, perché sono problemi differenti. In Belgio si tende, soprattutto a destra, a cercare di assimilarli in modo tale da avere più argomenti per soffiare sul tema non tanto dell'integrazione culturale quanto dell'omologazione. Questo è il discorso delle Fiandre, ed è un discorso un po' pericoloso per molti aspetti, per cui quello che io apprezzo, stato fatto dal governo, è stato cercato in questi giorni, è stato proprio quello di cercare di tenere distanti i temi, e questo è un atteggiamento responsabile che in altri paesi come il nostro il più delle volte non succede. Assolutamente. Senti, allora noi probabilmente ci ritorneremo a sentire anche per seguire un po' se ci saranno evoluzioni di tutta questa situazione. Noi ti ringraziamo per... Grazie, ciao. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Sulla schiena in certe circostanze sono ancora tali e quali, come ieri trito merda sulle strumentali. Porto lo stesso pane che ho mangiato, i libri che ho studiato per le fondamenta di un b-boy neonato. Roba che attacca il sangue di chi è scettico, conta seguaci che più sta più crescono. Tu prova una volta due poi non ti fermi, vieni a vivere sul palco dove sto a esibirmi, perché ho rime cazzute, più requisiti e più sollevo pesi con le teste dei falliti. Si tratta di un bambino nato sottoterra, venuto a superstare i giochi del mercato, se no per dichiarargli guerra. Ho cura un po' per il mio culo, un po' per la clientela, con 21 MC che ti accompagnano verso il 2000. Puoi misurarne il calibro e mille doti valide, più il veleno di cui sono responsabile. Diverse tattiche, ognuna con un peso, prova ad abbattere 21 Tyson. Sei sopra i pesi massimi, non puoi sbagliarti, hanno strumenti per convincerti. Diverse tattiche, ognuna con un peso, prova ad abbattere 21 Tyson. Sei sopra i pesi massimi, non puoi sbagliarti, hanno strumenti per convincerti. Diverse tattiche, ognuna con un peso, prova ad abbattere 21 Tyson. Sei sopra i pesi massimi, DRV. Non puoi sbagliarti, hanno strumenti per convincerti. Pura, no. Diverse tattiche, ognuna con un peso, la banda del Lucido. 21 Tyson, serio? 21 Tyson, 21 Tyson. Le tue poesie da ora in poi saranno scritte col sangue. No, bella per epicentro romano, Don Cal 03, Terziatella per il 96, 97, 98. Parle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Un produit du terroir. E torniamo in diretta per, come avevamo annunciato, per avere aggiornamenti da Piazzale Clodio. Si è da poco conclusa l'udienza del Tribunale di Esame per quanto riguarda gli arresti degli attivisti e dell'attivista dell'8 marzo della lotta per la casa di Roma, accusati in maniera assolutamente ingiustificata e assolutamente strumentale di racket e quant'altro possa essere vergognoso, per quant'altro possa essere vergognoso accusare chi quotidianamente si batte per l'affermazione del diritto all'abitare la città di Roma. In realtà non è che ci sono grandissime novità da quanto abbiamo capito, però è importante insomma intanto dare questo aggiornamento. Ci senti? Siamo in collegamento con la piazza. Pronto? Sì. Sì, vi sento piano, ma vi sento. Allora. Sì, niente, l'udienza è finita pochissimo tempo fa, quindi in questo momento si sta sciogliendo il presidio, perché appunto probabilmente fino a oggi pomeriggio inoltrato non ci saranno ulteriori informazioni, ulteriori notizie. I giudici, ovvero la giuria del Tribunale del Riesame, si è ritirata in qualche modo per deliberare, ora andranno in pausa pranzo e poi decideranno sulle sorti dei nostri compagni e della nostra compagna, quindi siamo costretti ad attendere, probabilmente insomma la notizia comunque dovrà arrivare nel pomeriggio, quindi invitiamo poi in realtà tutti e tutte a rimanere in qualche modo aggiornati anche attraverso la radio su come andrà avanti la cosa. Gli avvocati non si sono bilanciati in valutazioni, ovviamente in questa storia così allucinante, così pesante, con accuse così gravi come quelle che sono state mosse agli occupanti dell'8 marzo, ovviamente, come dire, a questo punto meglio non esprimersi prima in opinioni anche ottimiste per poi non rimanere in qualche modo delusi dalle misure che poi potrebbero essere state prese. Ovviamente è stata chiesta la scarcerazione dei compagni, sono state smontate tutta una serie di cose legate all'impianto accusatorio messo su dai carabinieri e dal PM. Bisogna vedere però ovviamente il tribunale del riesame come valuterà le posizioni portate avanti dagli avvocati del team legale che in questi giorni si è costituito e che insomma ovviamente ha fatto di tutto per cercare di portare fuori i compagni. Quindi niente, purtroppo non abbiamo grosse novità, sappiamo solo che la notizia dovrebbe esserci tra stasera e domattina, quindi quello che ci auguriamo ovviamente tutti qui è che stasera riusciamo a riabbracciarli e a vederli fuori dal carcere. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare Simone, l'arrestato che è ai domiciliari, e quindi insomma c'è stato anche un momento abbastanza emozionante qui fuori dal tribunale, però ecco niente, purtroppo siamo costretti ad attendere. Nel frattempo appunto, quindi mantenere alta l'attenzione su questa questione, continuare a portare la propria solidarietà all'8 marzo è fondamentale, e poi le valutazioni a questo punto continueremo a farle anche successivamente. Sì, tra l'altro già sono stati indetti alcuni appuntamenti nei prossimi giorni, ovviamente speriamo di poter che siano riflessioni però appunto con una a mente un po' più fredda e con gli stessi attivisti coinvolti, perché ci auguriamo ovviamente alla scarcerazione dopo più di ormai sono 15 giorni, 15 giorni. Ieri sono scaduti 15 giorni da che sono dentro, ricordiamolo appunto, quindi purtroppo uno sbilanciarsi è dovuto anche al fatto che ci troviamo in un utilizzo della custodia cautelare abbastanza arbitrario, abbastanza duro, perché effettivamente anche nella storia recente dell'attivismo e della repressione all'attivismo raramente si era trovati tra l'altro di fronte ad accuse mosse solamente da un testimone ben poco credibile come quello che ha mosso appunto questa accusa di estorsione ai compagni l'8 marzo, essere tenuti in carcere. Sì, e poi c'è stato anche quello che si evince leggendo le carte, che c'è stato un grosso lavorio da parte insomma dell'arma dei carabinieri e del PM che si sono seguiti questa inchiesta per costruire, come dire, tutto questo impianto accusatorio. Speriamo giovedì all'assemblea a fisica, giovedì pomeriggio alla Sapienza, di poter fare appunto valutazioni, di poter rilanciare, di poter organizzare le prossime mobilitazioni, ovviamente anche con i compagni al nostro fianco. Quindi questo è l'augurio che ci facciamo e niente, quindi adesso siamo solamente costretti ad aspettare. Va bene, ovviamente la radio si riaggiornerà appena avute le notizie. Perfetto, grazie a tutti e a tutti. Ciao. A presto. Ciao. Si alzano i lamenti di quelli che hanno pagato, quando l'unica moneta era sangue da versare. Una riga grigia a chiudere, tirata sul mondo. Di quelli che avevano creduto che ribellarsi era il minimo da fare. Che ribellarsi era il minimo da fare. Che ribellarsi era il minimo da fare. E nessuno di noi accetta il discorso che è un caduto fascista uguale a un caduto partigiano. Liberarsi era il minimo da fare. Tempo che non ritorna e non ritornerà se tu non vuoi capire. Tempo che non ritorna e non ritornerà se tu non vuoi lottare. Avanti, papà. e introdotti direi dalla vicenda dell'8 marzo possiamo appunto, dopo aver spaziato da Napoli al Belgio, ritornare su temi ben più vicini, sicuramente scottanti per chi ascolta questa radio dalla città di Roma e dal suo Interland. Torniamo a Roma perché nelle ultime settimane insomma si sono mosse non poche cose. In qualche maniera ci aiuteremo con appunto la voce che ricordavo prima, essere stata per tanto tempo parte di questa trasmissione e continua a esserlo attraverso collegamenti telefonici, e che ovviamente ringraziamo per una presenza anche fisica quest'oggi in studio, e per orientarci un po' nelle recenti settimane in cui sembra una grande confusione, esserci una grande confusione sul panorama politico romano, o meglio una grande confusione che in realtà sembra condurre invece poi a un ordine ben chiaro e ben definito. Dopo le aggressioni omofobe, dopo l'attacco incendiario al centro sociale legale di estrema destra Gens Romana, gestito dal storico personaggio del neonazismo romano Giuliano Castellino, è accaduto a Roma una cosa un po' particolare, una fiaccolata in chiave bipartisan, una fiaccolata contro l'intolleranza, una tematica che ha apparentemente messo insieme pezzi molto lontani nel loro quotidiano agire politicamente e nel loro quotidiano comportare, nei loro quotidiani stili di vita nella città di Roma, dalle associazioni, all'associazionismo GLBT, al esponenti anche di partito provenienti da quel mondo, passando per appunto i suddetti neonazisti di Giuliano Castellino e a pezzi del panorama politico della sinistra capitolina. Tutto questo capeggiati dai tre amministratori locali, Alemanno, Zingaretti e Marrazzo, in una operazione che insomma ricorda da vicino buone vecchie equidistanze veltroniane, una operazione che però appunto, così come accadeva con la vecchia amministrazione, tende a consolidare in maniera molto forte il potere poi della governance, soprattutto appunto di Alemanno, che in questo momento insomma direi che gode di ottima salute, dato anche che può permettersi una gestione politica delle emergenze sociali come quella che stiamo vivendo in questi giorni intorno alla lotta per la casa. Io direi che appunto, dato che poi di carne al fuoco ce n'è molta, si può ripassare attraverso anche quanto avvenuto sulla stampa romana a partire insomma da una lettera che poi a luglio insieme alle Madi per Roma Città Aperta mandammo al giornale L'Altro. Possiamo dire che purtroppo qualcosa si muove appunto a destra della città, nel governo della città, ma qualcosa si muove anche a sinistra, uno strano moto convergente che ha come direi a questo punto collante purtroppo non gli interlocutori sicuramente più aperti e democratici, ma anzi paradossalmente proprio le espressioni più retrive, più tradizionali della destra romana, della destra neofascista. Io, lasciandoti anche un po' la parola, insomma, possiamo iniziare questo piccolo dibattito. Sì, in realtà le cose le hai già dette tu. Buongiorno a tutti, ma diciamo che, visto che siamo praticamente anche in coda di trasmissione, forse iniziamo una riflessione che mi sembra di capire continuerà nei prossimi giorni, forse anche già sabato, dai microfoni di Radio Onda Rossa, e che magari saremo in grado di recuperare o di riprendere il prossimo martedì con Maldestra. Con diciamo una riflessione all'insegna del che cosa sta succedendo in città, insomma, no? Che si lega anche al collegamento precedente, alla vicenda dell'8 marzo, insomma, all'offensiva rispetto alle pratiche sociali auto-organizzate in città, che però è quella di capire come, diciamo, alcune vicende che sono accadute negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, in realtà stiano, diciamo, trasportandoci molto rapidamente in un altro scenario. L'impressione è che, ad esempio, di tutte le vicende che tu citavi, appunto, diciamo, una breve escalation, diciamo, di aggressioni, la campagna anti-gay, gli attacchi, eccetera, eccetera, siano serviti in qualche modo per fare un passaggio in città, questo passaggio che è stato segnalato dalla fiaccolata, che è non soltanto il classico passaggio bipartisan, no? Come si usa dire ora, eccetera, ma che è in qualche modo una pacificazione prima ancora che dei comportamenti delle culture politiche, e che si salda molto rapidamente, anche in modo abbastanza complesso dal punto di vista di chi, come dire, invece vorrebbe continuare ad analizzare le cose per quello che sono, dargli un nome ogni giorno, insomma, pronto a stupirsi, no? E pronti a stupirci di ogni cosa, ma anche cercando di dare un nome a ciò che accade in città, con questa sorta di abbraccio che alcuni in questo momento ritengono da sinistra si debba portare ad esperienze della destra radicale, confondendo il protagonismo giovanile, subculturale o quant'altro, ovviamente di questo poi si dovrà parlare molto meglio, con quello che giustamente tu definivi prima, parliamo di Casa Pound e Affini, come la federazione giovanile del governo, cioè diciamo i cuccioli di Berlusconi più o meno a tutti gli effetti. Questi elementi si stanno saldando molto rapidamente e rischiano nell'arco di pochissimo tempo non tanto di, come dire, togliere motivi o voce all'antifascismo, ma in qualche modo chiudere uno spazio di riflessione che è l'unico probabilmente in questo momento, insieme alle battaglie sociali, che possa consentire a questa città non soltanto di essere governata da un sindaco come Alemanno, ma di in qualche modo immaginarsi un futuro 10 anni o anche di più, e al di là degli esiti elettorali ci sono altre elezioni in vista, quelle regionali eccetera eccetera, con una piena egemonia politica e culturale della destra e con una sostanziale, diciamo, assenza di una riflessione critica, culturale, di analisi della situazione, oltre ovviamente a ciò che viene prodotto, insomma, nei luoghi in cui comunque si produce alterità ancora in questa città, in cui si producono battaglie sociali, su che cos'è questa città, su che cosa sono gli spazi, su che cos'è la democrazia, su che cos'è la tolleranza, l'intolleranza, eccetera. Questo rimanda in qualche modo a una riflessione sulle culture politiche, che è la grande assente di queste ultime settimane, in cui in qualche modo si può dire che probabilmente l'amministrazione capitolina, che sappiamo essere fortemente legata poi a determinati territoriali più radicali, quali sono le occupazioni non conformi, Castellino, bla bla bla, insomma sappiamo che ormai il circuito è molto largo, ha ottenuto quello che voleva, cioè attraverso queste poche settimane in qualche modo ha chiuso un'altra parte del proprio passato. La vicenda di un nazi skin nominato in una funzione pubblica come quella di Stefano Drini all'AMA sembra già, no, una cosa d'altri tempi, e in qualche modo le cose come accadono a Roma, le persone, le culture politiche, che cosa esprime il mondo di Casa Pound, che cosa esprime la destra giovanile accanto alla PDL, eccetera, eccetera, viene assolutamente passato in secondo piano, le cose reali non esistono più, è una sorta di dibattito metapolitico in cui, come dire, non si capisce bene chi fa l'interesse di chi, oppure probabilmente chi fa l'interesse di sé, inventandosi abbracci e incontri, ma evidentemente pensando di poter parlare a nome di una sinistra cittadina che non solo non è mai stata consultata in proposito, ma che forse sarebbe bene aprisse un serio dibattito su questi temi che, ripeto, non si tratta e non sono la riproposizione dell'antifascismo d'antan, ma porre una questione centrale su che cosa è su che cos'è questa città, su come ci si vive, su come si possono conservare spazi e culture di libertà. Tra l'altro io mi sento, insomma, di portare il discorso un po' più avanti. In questo momento appunto si deve seriamente riflettere su quelle che sono poi le culture politiche in gioco, o quali sono appunto le traiettorie che poi le culture politiche vogliono avviare per in qualche maniera anche insomma riprendere terreno a partire dalle culture antifasciste. Penso ci sia da fare una riflessione su quali sono, iniziano a diventare i nostri riferimenti come sinistra, antifascista, autonoma, indipendente, o quello che ognuno, insomma, in qualunque maniera ognuno si riconosca, a partire appunto, io direi, dagli ascoltatori della radio di questa trasmissione. Una riflessione su quello che è il sociale, su quello che è l'intervento, su questa vasta prateria che ormai è diventata effettivamente un terreno anche che va analizzato con molta laicità e fuori da quelli che sono un po' i preconcetti che in qualche maniera ci hanno traghettato fino ad oggi. e che adesso dobbiamo in qualche maniera rimettere in discussione, a partire da quali sono i contesti di intervento, le tematiche, il tipo di lavoro. Non è un mistero che, insomma, da ormai quelle che sono state le ultime elezioni e quelli che sono i risultati, in qualche maniera, delle i risultati, o quantomeno quelle che sono state le reazioni alla, insomma, alla stretta che stiamo vivendo in, sul panorama politico e culturale, tutta schiacciata a destra, anche lì dove ci sono settori che sembravano ormai messi in cassaforte da parte delle anche delle sinistre più rappresentative sul piano dei numeri, sul piano elettorale, va tutto rimesso in discussione. Io non so se invece vuoi continuare un minimo, proprio un dibattitino, proprio 10 minuti, per poi riprenderlo nelle prossime settimane, però quali possono essere terreni sui quali va analizzato. Il forse ultimamente, insomma, tematiche che legate alla crisi sono quelle più vicine, insomma, al dibattito sul welfare, sul mondo del lavoro e su quelle che sono poi le misure reali che il paese Italia sta avviando, a partire da un vero e proprio, diciamo, bagno di comunitarista che ha fatto il nostro ministro dell'economia, che hanno fatto alcuni pezzi del nostro governo e che insomma in realtà sta portando ben poco poi nelle condizioni, insomma, possiamo dare ben poco avanti le condizioni in materia di vita dell'Italia al tempo della crisi. Potrebbe essere uno, per esempio, dei nostri nodi di ragionamento. Sì, assolutamente. Diciamo, io mi fermo al primo anello di un'ipotetica gerarchia di ragionamento, come proposta anche agli ascoltatori, che è quello di ricominciare a riflettere su che cos'è la destra in questo paese, perché il problema, l'esito di queste ultime settimane romane ci consegna proprio questo come tipo di scenario. Cioè, qui qualcuno probabilmente non ha capito che cos'è, diciamo, il sistema di Berlusconi, perché non di sistema di una persona, non del padre padrone di una cultura proprietaria si tratta, ma di un sistema politico articolato, di una cultura articolata, di una definizione plurale dell'identità culturale e politica delle destre, che arriva fino a quei terminali giovanili e sociali che sono alcune delle realtà di cui abbiamo parlato fin qui. Questo è il primo elemento, nel senso che dove situare, visto che ci troviamo nello spazio di Maldestra, che a questo, diciamo, è dedicato prevalentemente, dove situare un ragionamento sulle destre, dove situare le ragioni di un antifascismo reale, possibile e concreto nel 2009, se non intanto nell'esame della realtà, di chi e di che cosa stiamo parlando, di quali culture politiche. Siccome le settimane da cui veniamo ci consegnano una fotografia dell'intolleranza come il semplice atto violento, e poi all'interno della difesa, diciamo, della tolleranza troviamo figure con il percorso politico da Stefano Andrini a Castellino fino a Casa Pound, cioè persone che al di là delle loro responsabilità penali hanno e ha avuto e continuano ad avere una cultura politica di un certo tipo, che attraversa peraltro esattamente questa maggioranza di governo. Beh, insomma, il problema sarebbe ripartire intanto da questo primo elemento, di capire di che cosa stiamo parlando e definire chiaramente qual è lo spazio della riflessione. Questo primo elemento è quello che ci può aiutare poi anche a capire, visto che probabilmente rispetto a quanto accaduto in queste settimane ciascuno deve sanamente, io credo, assumersi le proprie responsabilità, anche quelle di dire che ha una visione completamente diversa di questo scenario, di questa situazione. Certo è che stare, diciamo, all'interno di uno spazio come quello di Roma oggi, governata da Alemanno, e con questi segnali, e far sì che vicende come quelle da cui veniamo si chiudano con una sostanziale vittoria politica di un'amministrazione di questo tipo, che ha al proprio interno le culture dell'intolleranza, che le ha nella sedimentazione culturale dei decenni da cui viene, ma lo ha anche in alcune pratiche, in alcune esperienze, in molti dei suoi esponenti, e che questo elemento non venga in alcun modo, diciamo, valorizzato a sinistra, beh, insomma, questo indica tutti i limiti del dibattito, da cui consegue poi la cecità su molti altri temi, insomma, che siano di natura sociale, eccetera, eccetera, da cui quello che tu dicevi, poi l'incapacità, per esempio, rispetto alle risposte che la destra, sia a livello nazionale che a livello territoriale, dà alla situazione della crisi, diciamo, diventa sempre più difficile vederlo, sempre più difficile capirlo, no? Cioè, questo è proprio il problema: se non si capisce che si sta parlando di un fenomeno abbastanza vasto e plurale da contenere molte anime, e che però solo perché è plurale è stato vittorioso ed è egemone, altrimenti sarebbero dei pezzi, diciamo, conflittuali anche tra loro, mentre invece stiamo parlando di un sistema che si è costruito, stiamo parlando di 15-20 anni di storia italiana e stiamo parlando anche drammaticamente del nostro immediato futuro, insomma, no? Oggi, domani e dopodomani. Questo è probabilmente il momento, si pensava, da cui diciamo anche i toni un po' accorati, no? Dell'inizio di questa riflessione, si pensava che quello che era accaduto in questi giorni a Roma, in queste settimane, potesse essere al contrario un'occasione per riflettere, per rimettere in campo energie critiche, culture critiche e ragionamenti. Questa cosa si è saldata col contrario, cioè si è saldata con un'esaltazione del modello di governo politico e culturale di Alemanno, e che si salderà nei prossimi giorni addirittura con la partecipazione di esponenti del mondo GLBT a presunte iniziative della destra radicale, cioè con una sorta di follia, no? Ecco, come uscire da questa follia? Ricominciando a ragionare dando alle cose il proprio nome, che può essere l'unica necessaria base di partenza per qualunque, diciamo, ipotesi alternativa allo stato delle cose presenti, detta in modo molto così, insomma. Va bene, io penso che sia stata, appunto, sicuramente avviati dei termini di una discussione che, tra l'altro, insomma, ricordiamo, non è solamente nostra, in questo momento viaggia all'interno dello spazio della città. E che, tra l'altro, ricordiamo per gli ascoltatori, probabilmente se ne riparlerà proprio da questi microfoni di questa radio sabato mattina, presumibilmente sempre intorno a quest'ora. Sì, proprio perché poi tanto sugli appuntamenti convocati dal governo della città, tanto sulle colonne anche di giornali come l'altro, dove è proseguita dopo ormai, insomma, mesi di strana, appunto, convergenza di contenuti fra Casa Pound e la redazione del giornale, sono emersi, insomma, alcuni nodi problematici, e quindi, insomma, in un dibattito che sicuramente, diciamo, alla nostra realtà come radio, come redazione di Maldestra, come Sinistra Indipendente, ci sfiora, ma che poi in realtà, come vedevamo, insomma, prima, come stavamo, diciamo, discutendo, in realtà va a toccare poi nodi realmente scottanti, realmente nervi, realmente scoperti del pensare a sinistra in questo paese, nell'era della crisi, in questa fase storica, non possiamo che, appunto, invitare tutti e tutti a rimanere aggiornati e a ovviamente contribuire a costruire questo dibattito insieme. Con questo ci salutiamo, l'appuntamento è a martedì prossimo con Maldestra, di cui ricordiamo i riferimenti: maldestra.noblogs.org, la radio è www.ondarossa.info il sito, e qualunque contributo ovviamente è ben accolto. Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti e a tutte. We'll be right back. pas me parler. T'es sale truc, moi je m'emballais. Donne-moi une arme au cas où Jean-Marie voudrait m'emballer.